Insomma, che dire, oggi viene fuori un disastro. Assoranoz Maz Oidar. Praticamente Guglielmo, dobbiamo dirlo, ha visto Tenet. Ma cosa sta succedendo? Lorenzo è appena uscito dalla radio, sta tornando a casa e si è rimesso a dormire. Esatto, praticamente è successo questo e intanto abbiamo insultato anche Cigo. Comunque, bentornati su una zona rossa rovesciato, infatti siamo a testa in giù, non è proprio bellissimo perché in realtà è un riferimento non troppo casuale, però solo in questa occasione decideremo di fare tutto al contrario, quindi questa è la chiusura della puntata, è stato bellissimo, grazie, ciao. Ciao. Decidiamo di mandare anche la sigla, però prima dobbiamo capire perché abbiamo deciso di dedicare questa puntata a uno dei film più dispendiosi degli ultimi 10 anni, quindi una cosa estremamente capitalista, però ci piace perché ci ha colpito. Beh, ma non iniziare a parlare da quanti soldi hanno speso, parla di quanto cervello ci hai fritto sopra. Io sono 3 settimane che sto sbroccando per cercare di capire questo film, che è una figata pazzesca. Praticamente io sono rimasto folgorato, un altro tot di gente è rimasta folgorata, un altro tot di gente no, e poi è arrivato Guglielmo. A quel punto hanno capito che non avevano messo la messa a terra nell'impianto del cinema ed eravate tutti scioccati dalla corrente. Esatto, è stato proprio uno shock incredibile. Cioè, e poi in tutto questo io mi aspettavo anche una reazione da parte del mio partner in crime di Zona Rossa, ma non è avvenuta finché non l'ha visto. L'ha visto un po' tardi, ma l'ha visto, e quando l'ha visto mi ha intasato il telefono di telefonate, messaggi vocali: oh mio Dio, cosa ho appena visto. Raga, io gli do ragione, capito, io raga, gli do ragione. Non avete capito che cazzo di film della Madonna, ma manda sta sigla così andiamo in ansia. Mandiamo totale. Sta sigla che andiamo in ansia totale e vi raccontiamo un sacco di cose, chiameremo un sacco di gente, tutti per voi. Mica che ansia. Sono già passati 5 minuti del nostro tempo invertito. C'è Lorenzo che sta girando le manopole al rovescio nel tempo. Adesso si abbassano i volumi, si spegne la radio. Iniziamo a rinfrescare un po' la memoria perché arrivano dei messaggi molesti sul mio numero. Non dovete scrivere sui nostri numeri perché c'è una chat bellissima di Radio ZM che si chiama... No, scherzavo. Si chiama Radio ZAM, _chat, la trovate su Telegram, quindi scriveteci lì. Che però tra poco tornerà indietro, quindi diventerà una chat WhatsApp e poi una chat Facebook e poi si disattiverà. Esatto, ma anche MSN Messenger, farà 10 minuti di MSN Messenger e poi via. Esatto. Ci accingiamo, iniziamo questa bellissima puntata a tema... Tenet, ricchissima. Terremo tutta la colonna sonora di sottofondo durante la puntata e andiamo a pescare un'altra persona che ha apprezzato moltissimo, ma moltissimo il film, perché è di questo che vogliamo parlare, del film, andando al contrario, tornando sui nostri passi e regredendo a uno stato di nascita. Tra l'altro, quindi... poi è tristissimo che facciamo questa puntata proprio oggi, in cui effettivamente stiamo un po' tornando indietro. Nel senso che sono già ricomparse misure di parziale lockdown, stanno ricostruendo i contagi di brutto. Sembra quasi marzo, tipo. Lo sappiamo, che guardiamo fuori, esatto. Lo sappiamo che vi starete chiedendo: ma che fine farà Zona Rossa? Zona Rossa è nato per quello e tornerà sicuramente. Torna perché siamo nel tempo invertito. Esatto. Eccolo. Un livello squilla. Telefono fortissimo. Vabbè, allora, aspettando Davide, due informazioni per chi non ha mai visto quel meraviglioso film. Cosa succede in questo film? Viene scoperto un materiale che ha delle capacità particolari, cioè torna indietro. Loro dicono riduce la propria entropia. Noi non faremo delle specifiche di fisica quantistica. Benvenuto nel servizio. Niente, per una volta che concordiamo una telefonata, questa telefonata va a monte. Mi sa che dobbiamo smetterla. Non dobbiamo più concordare niente. Vai, Gulli, dicevi. Ah, hai visto, bravo. Sì, ma devi rispondermi quando ti chiamo, non dopo. Lo sai che a me piace fare le cose così. Ciao Davide, benvenuto! Benvenuto. Benvenuti anche a voi. Siamo su Tenet. Siamo su Tenet? Siamo su Tenet. Allora, adesso torniamo indietro nella telefonata. Partiamo da questo punto. Io sono alla Lidl e sto prendendo una cassa da 6 di Tenet. Attenzione, che riferimento. L'argomento di discussione è questo, quindi le Tenets. Sì, bravo. sì, le Tenets però invertite. Ma riesci a trovare, non so, dei biscotti che si chiamino Opera o Arepo? Ma no. No, niente da fare. Però io ho giocato la carta Davide all'inizio, un po' perché sappiamo che devi andare a lavorare, brutta cosa, ci dispiace un sacco, e un po' perché sappiamo che il film ti ha colpito veramente, veramente tanto. Sì, beh, allora, nel panorama registico non se ne trovano di lavori di questo tipo all'interno della nostra epoca, ok? Bisognerebbe tornare a un'epoca precedente. Farò tutte battute così oggi, sarà terribile. Guglielmo va fermato a un certo punto, secondo me. Senza dubbio può essere che comunque, rispetto ai film precedenti, Nolan potrebbe anche aver commesso dei passi falsi. Secondo molti, cioè, ci sono un sacco di teorie subito dopo l'uscita del film circa il fatto che comunque la trama presenta dei buchi che la rendono coi piedi fragili, diciamo. Ma perché non hai capito una mazza? La tare regge tutto. Questo senz'altro. Ma se lo guardi con Rewind. Vi faccio una domanda. Vai. Ah, vedi, la a noi. Domanda è questa. Però Davide, aspetta, perché noi non abbiamo spiegato ancora nulla del film. Perché noi, dato che siamo dalla Le persone capiranno. Va bene, va bene. Quando la bionda... Attenzione, ma c'è un allarme spoiler? Allarme spoiler. Sì, ma spoileriamo tutto, ma sì. Attenzione, lo sapete. Il film è uscito mesi fa, cioè dai, se non l'ha visto, si attacca al cazzo, direi. Ma al contrario, quindi... scusa. La tipa bionda ammazza Kenneth Branagh. Sì. Kenneth Branagh, che personaggio è? Bellissimo. Lui è il russo? È il russo, giusto? Esatto. Un fantastico Kenneth Branagh, tra l'altro. Guarda caso, sempre questa narrazione di americani contro russi. Vabbè. Fredda non è mai finita. Vabbè. La geopolitica si manifesta anche attraverso la cinematografia. Chiaramente. Detto questo, comunque, la bionda torna, si inverte. Sì. Ok? E va ad ammazzare sto russo. Sì. E fin qui tutto bene. Ok? All'inizio del film ci spiegano che i personaggi che vengono invertiti, il cui livello di entropia viene invertito, devono avere dei respiratori con sé. Lei non ha alcun tipo di respiratore. Ma vabbè, ma veramente stai facendo una roba del genere? Ma se l'ultima scena in cui si parlano, lei è il protagonista, che non ha nome, non viene mai chiamato per mai chiamato, film, mai. Loro la fanno e poi si invertono. Lui si inverte, cioè torna a fluire il tempo normalmente, e lei anche. C'era bisogno dell'inquadratura in cui lei viene invertita perché tu ci credessi. Parte è un po' scivolosa, secondo me, del film. E invece, Davide, la parte che ti ha colpito di più, che dici al cinema ti stavi proprio smutandando, è quando lui si inverte per la prima volta e va Aspetta, no, ce ne sono due. La parte dell'inseguimento in macchina con lui però invertito. No. Beh, adesso apriamo un capitolo su questo inseguimento in macchina. E poi anche quando lui combatte con se stesso e rischia di ammazzarsi proprio. Ma cioè, proprio il momento in cui lui combatte contro un agente della SWAT tutto nero non si capisce. Tu dici quando lo spettatore lui ha la comprensione. Lì è contro se stesso. Ma non lo sappiamo ancora all'inizio. Dai, però come quando... no? All'inizio non lo sappiamo. All'inizio no, però quando poi lo capisci e rivedi il combattimento fatto da lui nei anni dello SWAT. Esatto, è lì che ti vuole Nolan, secondo me. È proprio lì. Mind fucking. Vero, sì, no. sì, è lì che il cervello inizia a bollire. A bollire male. Ma più che altro la questione tu, che... Gulli, cosa dici del film? Quando l'hai visto? Perché? Io l'ho visto qualche settimana fa, è stato veramente molto molto bello e mi ha veramente fritto il cervello, sconvolto al cinema. Cioè, ma dovevo andare al Ducale, ma poi ho scoperto che l'avevano tolto perché era andato indietro nel tempo. No, non è vero. Quindi di fretta e furia ho cambiato cinema perché volevo vederlo assolutamente. Avevo questo conto di sospeso con Lorenzo. E quindi, a parte il fatto che all'inizio pensavo fosse una pubblicità, infatti ho detto, mica, quanto dura sta pubblicità? Mica, siamo messi bene. Tutti dentro l'opera dell'Ucraina, di Kiev, boh, vabbè. Di Kiev. L'opera di Kiev, che corrono. No, la scena, beh, allora, a parte il fatto che anche a me ha colpito molto la scena del combattimento, al contrario, per esempio, quando la vedi la prima volta, vedi che loro due si pestano malissimo, poi questo scompare perché viene risucchiato fuori dalla stanza dove stanno combattendo, poi si capisce che non si perché. Capisce come e perché viene risucchiato. È un'esplosione così, al contrario, cioè. Perché vedete, quando lui la vive, alla fine del film, il motore è esploso e poi ha preso fuoco. Vivendolo al contrario, prende fuoco ed esplode. Quindi lui per lo sbalzo viene spinto dentro. Quando tu la vivi la prima volta, quindi col tempo che fluisce in avanti, cioè diciamo come potremmo viverlo noi, ecco, con la normalità hai del tempo, capito. Lui, la cosa succede al contrario, quindi l'opposto dell'esplosione, il risucchio, lui viene trascinato via. C'è da dire anche che tutto l'apparato di effetti speciali e tutto il resto rende molto bene, però c'è da spezzare una lancia a favore di Nolan, perché da quello che ho letto io, da quello che ho visto, di effetti speciali non ce ne sono così tanti, tant'è che lui ha girato proprio delle scene al contrario. E questa cosa, mentre guardi il film, almeno per gente del settore, brutti schifosi come me, ti continui a sforzare pensando, cazzo, ma quanti chilometri di green screen hai utilizzato? E invece no, soprattutto andrebbe nella scena dell'aeroporto. Andrebbe riguardato senz'altro. Andrebbe riguardato al contrario. Volta. Allora, poi andrebbe riguardato al contrario, così lo capiresti forse davvero. Sì. Oppure con te girato al contrario, cioè non lo guardi, tu lo dall'altra parte e fai al contrario. No, invece io da bravo fruitore di film hollywoodiani scabrosi e un mio livello intellettivo bassissimo, la scena che a me mi ha proprio fritto il cervello è la scena finale, con l'assalto alla base generale del cattivone, con tanto di coso che deve essere fermato prima che venga mandato nel futuro, cioè nel passato, cioè nel buco, cioè quella scena di guerra con gli edifici che esplodono, si ricostruiscono e riesplodono di nuovo, cioè io mi stava esplodendo. Io lì ho gettato la spugna e ho detto vabbè, io qua non ci capisco proprio un mi lascio andare allo spettacolo, fai quello che vuoi, vienimi in faccia, fai quello che preferisci. Un genio. Vogliamo bene a Nolan, lo ringraziamo e niente, Davide, prossima domanda. Vai, io ho una domanda per te adesso, però quando vuoi te la vodka faccio. Vodka allo zenzero o alla fragola, Lorenzo? Zenzero, grazie. Perché adesso... tutto questo sono sempre alla Lidl che sto facendo un po' di spesa. Che no? Livello qualitativo totale. Tanto ricordiamocelo, stasera Lorenzo torna indietro nel tempo perché rivive i suoi 20 anni, ma 30 anni. Esatto. Succede questa cosa. Sarà una brutta cosa. Esatto. Niente, comunque, andando avanti a parlare di questo bellissimo capolavoro, facci la domanda. Mi sa che era la vodka la domanda. Era la vodka, allora facciamogliela noi a lui. No, però Gulli aveva una domanda. Certo, io ho una domanda per te. Tra l'altro poi parlando di questa puntata, perché dovete sapere che questa è una delle pochissime volte che Zona Rossa si è preparato qualcosa, incredibile. Rarissimo, no? Pure male. Però come evidente non c'è riuscito un cazzo. Infatti avevo detto, ma perché non chiediamo a Davide una bella introduzione filosofica sul significato del tempo, il concetto di tempo, tornare indietro nel tempo? Ma secondo me Davide, che adesso è la Lidl, si sarà preparato sulla vodka allo zenzero, ma forse non sul concetto di tempo. Ma non ti preoccupare, ti metto io in difficoltà. Tra l'altro coglierei l'occasione per dire a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, mandate gli auguri di compleanno a Lorenzo. Chat Telegram, auguri, Radio Lorenzo. Zam, trattino basso chat. Volevo fare un grande saluto a Gioia. Auguri Lollo. Mamma ride. Mia. Gioia e ride. Mamma abbiamo fatto mia. Una litigata prima di uscire di casa. Che bello. Gulli, ma peggio dei bambini. Mamma mia. Cioè, peggio dei bambini, davvero. Sai cosa dovresti fare? Dovresti tornare dietro il tempo, prendergli a schiaffi, poi far ripartire il tempo in avanti. Così. Io gli ho messo in mano due katane, sperando che iniziasse un combattimento all'ultimo sangue. Beh, invece, niente. Ma vabbè, no, dai, comunque, nei nostri percorsi filosofici, qualcuno che parla del tempo l'abbiamo trovato. Quindi, dai, Davide, due parole in filosofico. Poi c'è la domanda sempre. Quando ve ne dico quattro. Ma proprio quattro. Quattro parole. Sato, ok. Tenet, opera rota. No. Il tempo distrugge ogni cosa. Madonna! E invece vogliamo ricordare qual era la citazione che usavano gli agenti segreti nel film, che non me la ricordo. Per telefonarsi. Quella degli amici. Era tipo nelle tenebre... Intanto la cerco, fatevi le domande. Nelle tenebre ho trovato la luce, una roba del genere. Ma dopo, quando parlano di Tenet, devono fare il gesto con la mano. Ma loro c'hanno tipo un anagramma: Timeo, tenebra. Sentite, là di sottofondo c'è la monola sonora di brutto. Ma quindi, Davide, se tu dici che il tempo distrugge ogni cosa, se noi fossimo capaci di rivivere al contrario il tempo, ricostruiremmo ogni cosa? Se riuscissimo a invertire l'entropia, sì. È stato scritto anche un racconto breve da Isaac Asimov su questo argomento qui, che è allucinante, bellissimo, che vi consiglio di leggere. Questo racconto si intitola La domanda. Attenzione, contenuti d'oro. C'è questa intelligenza artificiale che un po' come ai tempi nostri raccoglie informazioni su tutti gli esseri viventi. E tenta di incrociare i dati per però tentare di risolvere i problemi dell'umanità e non di acuirli. Sì. Fino a che non riesce a invertire l'entropia, e però non vi svelo altro, anche perché non me lo ricordo così bene. Tenet, sì. Andatelo a leggere. Si definisce un film sull'entropia comunque, il film. Quindi è azzeccatissimo questo commento e questo consiglio del libro. Ripeti il nome del libro? È un racconto breve, quindi si trova in una raccolta, ma si trova anche su internet tranquillamente. E La domanda, bellissimo, di Isaac Asimov. Grazie. Allora, io man mano che parli, Davide, ho sempre più domande da farti. Allora, adesso iniziamo dall'ultima che è venuta in mente. Questo concetto per cui il tempo si associa all'entropia, per cui noi andiamo verso un universo, verso una realtà sempre più disorganizzata, che è la realtà, cioè così la fisica la definisce nella legge della termodinamica, per cui invertendo l'entropia tu inverti il tempo. Ma al tempo stesso ciò significa fisicamente ricompattare gli oggetti, cioè che la materia si riavvicina. Su questa cosa non saprei risponderti, ovvero se equivale il fatto che invertendo l'entropia torni indietro nel tempo. Cioè, potremmo tutti essere portati a pensare che sì, però non ci ho mai pensato su questa cosa qui. Okay? Ma uscendo dalla fisica, sapendo che tu sei un filosofo di grandissima preparazione, come qui il disoccupato, il carissimo Lorenzo, tutti studenti disoccupati, cioè di filosofia, la cosa che mi interessa chiedervi è, cioè, nelle vicende umane, per esempio, è vero che l'entropia è il segno del passaggio del tempo? Cioè, è vero che l'umanità va verso una disorganizzazione o è vero il contrario? Perché se uno si estrapola dalla realtà materiale degli oggetti e va nella realtà sociale, nei rapporti sociali, noi andiamo verso una società più strutturata, più organizzata, dove c'è meno entropia, meno confusione? Oppure lo scorrere del tempo e l'entropia è la stessa anche lì? Eh no, secondo me è la seconda, però risponde Davide. Allora rispondo e poi mi appropio in quel lavoro, sappiatelo. Va bene. Allora, noi viviamo in un sistema fisico per cui tutta l'energia si trasforma, ok? In queste trasformazioni e in questi cambiamenti di stato, nel salto che un corpo compie da un passaggio all'altro, c'è sempre una dispersione di energia che viene dispersa e che però non si organizza in alcun modo. E quella forma di energia dispersa nel cosmo viene chiamata disordine o entropia. Ok. È strettamente collegato al fatto che comunque il tempo distrugge ogni cosa, perché cioè, le disorganizza. E in questo una cosa che ci tenevo a dire, che mi hai fatto venire in mente, Gulli, mentre facevi la domanda, è che si può quindi andare a scovare nel cuore del tempo una natura anarchica, perché il tempo non ha riguardi per nessuna organizzazione, quindi il tempo in sé è una sgrega, distrugge, Porn... il tempo è anarchico perché distrugge tutte le forme di potere. Ok. Ah, ok, la butti in politica praticamente. Questa roba qua è interessantissima. Volessi parlare con un centro sociale, si chiama Zona Autonoma Milano, e si viene qui lunedì sera a parlare. Qui, scusate, lì, devi andare lì perché noi non siamo qui, non è che stiamo facendo pubblicità a noi stessi, ma figurarsi, a parlare di questa cosa. Molto interessante. Prima che vai a lavorare, lui, a un certo punto il protagonista, dice una cosa molto interessante subito, perché è una persona intelligente al contrario mio, e quindi dice, ma se il tempo va al contrario e il libero arbitrio? Prego, Davide, rispondici. Non esiste. Ma quindi cioè, non esiste quando io mi inverto. Non esiste più il libero arbitrio perché sto riavvolgendo il tempo. O non, o dato che ho scoperto come fare a riavvolgere il tempo, oramai non esiste più il libero arbitrio o non è mai esistito? Cazzo, questa è una bella domanda. Allora, inizio a passeggiare. Ma chiederlo alla cassiera della Lidl, poi andare a vedere se c'è il reparto. Aspetta, un attimo che vado a chiedere all'inserviente, Vai. Legna. Ma se tu, mentre sei alla Lidl, a un certo punto ti giri e vedi uno che c'ha un ciondolino rosso sullo zaino, che cazzo fai? Madonna santa! Addio! Cioè, ti vedevo mentre parlavi, io ti immagino in mezzo alle famiglie, ai bambini e tutto, che sei in cuffia ovviamente con noi, parli di tutte queste cose e poi a un certo punto ti giri e vedi uno zaino con... con il cassettino rosso. No, e poi ti giri, guardi in faccia il tipo ed è Robert Pattinson. Che però è andato a prendersi una birretta lì. Che sta girando Batman centro, a Milano. Esatto, a girare per Batman. E si è tenuto il portachiavi. Più o meno siamo come Gotham City. Comunque, Gulli ti intrattiene un secondo. Ti rigiro la domanda per capirla meglio. Vai. Perché lui fa questa domanda sul libero arbitrio? No, non lui fa la domanda, cioè lui fa una domanda ma una considerazione, sta parlando con la dottoressa che gli sta spiegando quello che stava facendo noi prima, cioè gli sta spiegando la base di come funziona questa storia, per cui semplicemente questa materia, almeno sono degli oggetti che loro trovano così come sono, che invertono la loro entropia, quindi se tu pensi di prendere in mano il proiettile da solo torna indietro e ti salta in mano. Cioè, tu pensi di averlo lasciato andare, ecco, come se tu l'avessi fatto come se tu l'avessi fatto cadere, lui ti torna in mano. Quindi lui, tra le primissime considerazioni che fa, ma il libero arbitrio? Sul momento non l'ho capita sta roba, ho capito dove andare a parlare. È la tua decisione. Di fatto, effettivamente, se il tempo si riavvolge, è già tutto deciso. Cioè, se è possibile riavvolgerlo, vuol dire che è già accaduto. Esatto. Per cui, se tu lo fai riavvolgere, di fatto non è più libero arbitrio. Comunque, spezziamo una lancia a favore della citazione che c'è in Tenet, che è: viviamo in un mondo crepuscolare. E la risposta che gli danno è: niente amici al tramonto. Che secondo me è bellissima. Mamma mia, che poesia. Mamma mia. Davide, grazie. Vabbè. Grazie, Davide. Ci devi grazie consigliare una canzone, ragazzi. Così spezziamo questa cosa che stiamo facendo, perché potrebbe prendere una piega inaspettata. Poi scegli la canzone, Bulli. Ma devi avere la parola a tempo. Esatto. Vieni a cena stasera. Purtroppo non mi trovo nelle condizioni personali di poter venire. Va bene. A meno che poi non si possa tornare indietro da un'infezione. Davvero posso scegliere la canzone? Vai. Ok, allora, Skin Shape sono gli artisti. La canzone è Life as One. Ma non c'è la parola tempo in questo titolo? No, ma nel testo ne parlano. Ah, ok. Dai. Va bene, Davide, è stato molto bello parlare di quasi cose con te per una volta. Facciamolo più spesso, ma non troppo spesso, sennò sembra che siamo un programma serio. Viviamo in un mondo crepuscolare. Niente amici all'orizzonte. Tramonto, cazzo. Vai, torna a scegliere la vodka allo zenzero, dai. Pezzente che non sei altro. Però collegati così ascolti la canzone. Bravo. Adesso ci provo, va bene. Tra l'altro vorremmo sfruttare questo momento, soprattutto il podcast, per fare i complimenti alla dottoressa Silvia Lamoglia, laureata a 110 lode all'Università degli Studi di Milano Bicocca, con una tesi sulla violenza e sulla diffusione della violenza nei giovani. A voi la canzone. Grazie Davide. Lorenzo, invita anche la Silvia a cena stasera. Grazie Davide, ci vediamo dopo. Ciao. Lorenzo, sono che se siete più di 6 vi arriva Conte in casa e vi blinda tutti. Mettiamo subito la musica giusta che ci faccia venire quell'ansia che ci motiva, eccola, ad andare indietro nel tempo. Quanto è bello sto film, madonna santa. Troppo bello. È talmente bello che i buchi nella trama non ci frega un cazzo. Esatto, ce certo. ne frega niente, siamo persone semplici, noi vogliamo vedere ste cose, basta. Allora, adesso noi chiamiamo un esperto di qualunque cosa. Proprio di qualunque cosa. Esatto, e chiederemo a lui specifiche sulla manovra tenaglia temporale, che è una cosa che accade due volte nel film, una volta fatta da cattivi, una volta fatta dai presunti buoni, ed è un concetto abbastanza complicato. Dald is unobtainable. Non ci deve venire quell'ansia che ci motiva, eccola, ad andare indietro nel tempo. Ma cosa sta succedendo? Come è possibile? Bello sto film, madonna. Ma perché io sto ascoltando la radio? È talmente bello che i buchi nella trama non ci frega un cazzo. Ma non ce ne frega niente. Siamo persone semplici, noi vogliamo vedere queste cose. Basta. Allora, adesso noi chiamiamo un esperto di qualunque cosa. Come può succedere questa cosa? Questa cosa è giustissima così. Ho chiuso. Cioè, ragazzi, è bellissimo quello che è appena successo. È bellissimo. Mamma mia, siamo riusciti ad autotramutarci in noi stessi seguendo la trama di Tenet. Niente, noi ringraziamo Davide. Adesso piano piano riprendiamo con calma, perché questo è a rischio infarto sta puntata. Mamma mia, dopo che Lorenzo stramazza il suono. Ringraziamo Davide, lo ringraziamo anche per il contributo dei libri, perché che se ne dica, siamo persone di una certa cultura e spessore. Per sbaglio, completamente e per sbaglio. Bentornati su Radio ZM, abbiamo deciso di dedicare questa intera puntata spostando di giorno e di orario, perché andiamo indietro appunto, quindi questa cosa succederà domani in realtà. Esatto. Voi non lo sapete ancora, che per voi però è ieri. Esatto, quindi buon mercoledì a tutti e tutte, e vi ricordiamo la chat che oggi infiamma radiozam_chat su Telegram. Ringraziamo Carlo che ci manda dei messaggi, avevamo provato a chiamarlo, poi proveremo dopo, tanto ci starà ascoltando, quindi ci faremo chiamare. Carlo chiama Guglielmo e ha scritto: ah, ma allora siete in diretta, perché ovviamente c'è, cioè, zona rossa è ovunque, quindi questo vuol dire ci che devo richiamarlo, che proviamo. Auguri, perché mi fa gli auguri, quindi grazie. L'ultima domanda che avete fatto, questo è il titolo giusto, ci ha mandato un libro che si chiama L'ordine del tempo di Carlo Rovelli. Leggo giusto l'incipit e i contenuti. L'ordine del tempo esamina la natura del tempo da diversi punti di vista e l'evoluzione. Niente, il numero non ci risponde. Adesso ne proviamo un altro. Da diversi punti di vista, l'evoluzione della sua comprensione nel corso dello sviluppo del pensiero scientifico. In particolare, viene posto l'accento sul fatto che il suo scorrere, quindi lo scorrere del tempo, non è uniforme nei diversi punti dell'universo e che in molte delle equazioni che stanno alla base della fisica moderna la variabile tempo non compare affatto. La conclusione è che ciò che noi siamo abituati a chiamare tempo è in realtà un prodotto della mente umana e che, aperte virgolette, l'emozione del tempo è precisamente ciò che per noi è il tempo. Il tempo siamo noi. Quindi, Guglielmo, in un altro punto dell'universo tu sei una persona intelligente, dotta, simpatica, allegra, gioviale e positiva. Penso che questa cosa non possa esistere nemmeno dalla parte dell'universo, ma va bene lo stesso. Ma no, invece io volevo prendere tempo parlando di un'altra cosa. A parte che mi hanno chiamato, quindi magari vuol dire che dobbiamo richiamarli, della gente che abita da una certa parte. Se no io ho una persona da chiamare, però è un po' in stato di difficoltà, quindi adesso magari l'avvisiamo prima di chiamarla. No, secondo me era molto interessante parlare di un altro aspetto, dei 200 milioni di aspetti interessanti che ha questo fantastico film, quel bellissimo cosa che è il quadrato di Sator, che è una figata, cioè, esatto. Perché poi tu vai avanti tutto il film e capisci che c'è questa parola Tenet che però è all'interno di questo quadrato. A me, io che sono una persona stupida ci ho dovuto, cioè sono arrivato dopo, perché loro in realtà fanno sfoggio di questi nomi particolari, l'organizzazione, che poi in realtà io non l'ho intesa come organizzazione, intesa come un'operazione della CIA, perché il protagonista è evidentemente un operativo della CIA, sì, sì. Che viene come si dice, ingaggiato in una maniera un po' particolare, gli strappano i denti per vedere se è veramente uno che ci tiene all'organizzazione. Era un test soci. Per far sì che lui non si ingoiasse la pillola avvelenata e i suoi soci sono morti, lui invece è sopravvissuto, mantiene saldo l'onore, insomma, della corruzione. Per cui lavora. A me sa molto, in realtà alla fine sa un po' di supercazzola. Anzi, alla fine si scopre che è una supercazzola, perché essendo stato lui a inventare tutto quanto, cioè mi sa che in realtà l'hanno torturato, lui ha cercato di ucciderci, l'hanno ripescato. Non so come dire, questo penso è vero. Che Nolan abbia fatto riferimento a tutte quelle storie di spionaggio dove questi si uccidono piuttosto che parlare, una specie di tributo alla storia degli spy story, o anche alle spy story vere, non ne sono così informato. Però alla fine della fiera, cioè, gli fanno strappare i denti per poi dirgli: vabbè, dai, vieni con noi, imbarcati in questa avventura. E per poi dirgli: guarda che hai fatto tutto te. Esatto. Cioè, lui si imbarca in questa avventura. Per cui Tenet è il nome dell'operazione, dell'organizzazione, ed è la parola centrale del quadrato di Sator. Poi compare Sator, cioè l'antagonista del protagonista, cioè questo mercante russo di armi che si scopre essere in contatto con delle persone nel futuro che gli stanno rimandando indietro delle materiali, delle informazioni per attivare questo congegno che annullerà il tempo. Farà in modo di annullare il tempo prima. Io credo a questo punto, ma lo penso in questo momento. Lui a un certo punto lo dice, Sator lo dice, nel futuro fa tutto schifo perché avete sciolto le calotte polari, avete desertificato l'universo, anzi il pianeta Terra, che però è l'universo dato che l'essere umano non riesce a vivere altrove, in questo momento, e per cui invertendo l'ordine del tempo, il tempo si annulla e scompare tutta l'esistenza. Poi probabilmente dal futuro riusciranno a ricostruire il passato tornando indietro nel tempo, evidentemente, non lo sappiamo. Quindi abbiamo Sator, abbiamo Tenet. Arepo è la ditta che Sator mette in piedi per commercializzare delle opere d'arte, ma in realtà è tutta una copertura che gli serve per fare in modo di poter smerciare le sue cose, i suoi traffici d'armi, ma soprattutto i materiali che tornano indietro nel tempo, che lui riesce anche a invertire, perché si costruisce questo famoso tornello, che è questo macchinario che permette di invertire il tempo delle persone viventi, mentre fino a un certo punto del film l'uniche, cioè, sono dei materiali che tornano indietro nel tempo da soli. Poi abbiamo Opera, il film inizia all'Opera, It's all'opera di Kiev, l'abbiamo detto prima, e c'è un ruolo importante di questa cosa dell'opera, perché richiama l'operazione dell'opera, avviene spesso perché è interfacciata riguardo a tutta quanta il resto della storia. Rotas, onestamente non mi ricordo dove compare. Rotas, se non sbaglio, era... Aspetta che intanto cerco... Da qualche parte cerco cose. Emergerà. Carletto, non ci devi ascoltare, devi rispondere al telefono, hai 54 esatto. numeri, mandaci il tuo numero intanto. Esatto. Carletto, mandaci il numero. Detto questo, cos'è il quadrato di Sator? Io sono andato a vedermelo dopo perché avevo capito che c'era un riferimento, ma durante il film non l'avevo capito perché sono stupido. Il quadrato di Sator è un'incisione che viene scoperta, la più antica che è stata scoperta risale al 73 d.C., una roba del genere, a Pompei, al 79 d.C. a Pompei. È in realtà un'iscrizione che appare in tantissimi posti, basiliche, case private, ma anche in pezzi di muri, ed era una specie di, come dire, una simbologia in uso che veniva spesso riportata come portafortuna o semplicemente come ornamento. E si compone di queste parole scritte una sopra l'altra: Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. La cosa particolare, se lo scrivete su un foglio lo notate subito, che questa formula è leggibile in ogni senso e in ogni lato. Cioè possiamo leggerla al contrario, dal basso verso l'altro, e avremo di nuovo Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Possiamo leggerla da sinistra a destra leggendo le parole in verticale, avremo di nuovo Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, e al contrario alla rovescia. Cioè se partiamo da destra verso sinistra, sempre in verticale, abbiamo sempre la stessa formula. Questa formula ha fatto scoppiare il cervello a tutta una serie di persone che si sono domandate ma per quale cavolo di motivo hanno fatto questa cosa? E ce ne sono disparate e più, come si dice, traduzioni. Le parole, partiamo dalle parole, saremo brevissimo. Sator è una parola abbastanza comune, facile da tradurre, è il raccoglitore, è colui che raccoglie e mette il grano, lavora nei campi. E si pensano due possibili... come si dice, traduzioni, perché una potrebbe essere il grande mietitore, non nel senso della morte, ma forse anche la morte, forse anche la morte, Gesù Cristo, che è colui che raccoglie i campi, Dio creatore, ma nell'iconografia classica romana era proprio una divinità, era, se non sbaglio, Saturno, che raccoglieva con Arepo, che è la parola più misteriosa di tutte, nel senso che è come se non avessimo scritto sul quadrato sbatti. Cioè è un gergale, non si capisce bene da che parola derivi. Potrebbe darsi che significhi arepo, cioè un appezzamento di terreno. Potrebbe essere un falcetto, che sta bene con Sator perché il raccoglitore col falcetto. Potrebbe essere un anagramma per dire altre cose. Tenet in realtà è un verbo, tiene, tenere, mantenere. Reggere, sì. Opera si può intendere sia avere cura di, un ablativo, oppure, ovviamente l'ho letto, non è farina del mio sacco perché in latino ho sempre avuto il debito, opera potrebbe essere le opere, le azioni, oppure l'ablativo prendersi cura, rotas, la ruota, ma anche intesa... Il carro del destino. Esatto, ciò che ripercorre, ciò che ritorna. Per cui le traduzioni possibili sono, letta proprio così come la si legge dall'alto verso basso classicamente, dovrebbe essere... Il creatore delle terre governa le ruote celesti. Se invece lo leggiamo al contrario, potremmo ottenere una roba tipo il creatore delle terre. No, alla rovescia viene come il seminatore decide le opere quotidiane, ma il tribunale celeste decide il suo destino. Ora, questa è incredibile. Un pochino romanzata, però effettivamente alcune parole potrebbero essere lette due volte, perché se hanno due significati e tu li metti in entrambi, le frasi si allungano. C'è addirittura un'ulteriore traduzione che si può avere leggendolo da destra verso sinistra in verticale, che è il seminatore si prende cura del creato, l'uomo si prende cura dei suoi campi. Cioè, una roba che ti fa esplodere il cervello. E, ultimo ma non ultimo, in inglese... Tenet, scomposto a metà, è un palindromo per dire ten ten, e infatti nella scena finale di Conflitto a Fuoco, con questi gruppi che vanno avanti e indietro nel tempo, dura 10 minuti. Loro hanno il tempo cronometrato perché hanno un tempo ten, in cui ten. Poi verrà attivato il congegno che distrugge il tempo e devono fare ten ten, squadra rossa, squadra blu. E se il Carletto ci risponde, adesso parliamo della manovra tenaglia, se no io mi squaglio il cervello. Allora, anticipiamo due cose sulla manovra tenaglia, ma prima ancora anticipiamo un gossip. Nolan ci ha lavorato per 2-3 anni a questa sceneggiatura. Madonna ragazzi, 2-3 anni di scrittura, la scrittura è sua, quindi è tutta sua. Se vi state chiedendo anche se oltre alla regia ci ha messo mano a livello di scrittura, è sua. E per la manovra tenaglia... Mi attacco a questo articolo che avevo già letto su Wired, che ho apprezzato, e praticamente l'articolo è molto accattivante, spiegazione del film, 5 cose che vorreste sapere su Nolan a livello proprio di narrazione, e uno dei piccoli capitoli si chiama La mossa tenaglia, e qui dice: il concetto di controcorrente è molto importante in alcune scene chiave del film. che avvengono mentre si incrociano elementi che proseguono ordinariamente in avanti e altri che sono invertiti dal futuro verso il passato. Molto spesso in questi casi viene applicata la strategia che nel film viene chiamata mossa tenaglia. Si tratta di una tattica militare nota fin dalla battaglia di Maratona, nel 490 a.C., in cui accanto a una squadra principale che attacca frontalmente il nemico, ce n'è una o più di una che si muove ai lati, circondandolo e attaccandolo alle spalle. Lo stesso in Tenet avviene in una chiave temporale. Un gruppo di persone prosegue l'obiettivo seguendo la linearità classica del tempo, ma viene sostenuta da un'altra squadra che invece si inverte e, viaggiando indietro nel passato, è in grado di anticipare avvenimenti e svolte in modo che la squadra lineare sia informata in anticipo sui fatti. Beh, abbastanza banale in realtà. Ma sembra banale, però il problema è questo, te lo pongo in questa maniera. Facciamo che siamo in tre. Siamo io e te contro un altro. Ok. Se tu ti inverti, sì, il fatto che il tuo tempo inizia ad andare all'indietro. Quindi io ho già finito. Tu stai già andando in un'altra direzione opposta a noi. Esatto. E già qui potremmo dire che la scena non funziona. Mettiamo caso, come dicono nel film, in realtà loro dicono la squadra blu è già stata qui un'ora fa. L'attacco l'ha già fatto. Però io e te non ci potremmo vedere, e ci lo ha dato... sai. Come nella scena quando si dividono, loro dicono la squadra tal dei tali e l'altra squadra non si incontreranno mai. Se si incontrano... Perché tu non puoi incontrare te stesso invertito. Ma non sono la stessa squadra, infatti. È vero, non sono la stessa squadra. E l'altro ragazzo si dividono. Si dividono, però poi a un certo punto si incontrano anche. Sì, ma non incontrano i se stessi. Non incontrano il se stesso del tempo che procede nell'altra direzione. Ok. Per cui, sotto quel punto lì, secondo me... Vai avanti, siamo io e te contro un altro. Io e te contro un altro. Cioè vuol dire che in realtà mi picchio con uno. Sì. Quando io ho finito di picchiarmi con lui, torno indietro nel tempo... E a quel punto, che è la complicazione che aggiunge nel film per crearti dei problemi di disagio mentale, cosa succede? Che lui non è che fa una roba lineare per cui io lo attacco, torno indietro nel tempo, ti parlo e ricominciamo. Ok. No? Lui cosa fa? Io vado lì, mi ci meno, mi inverto, mentre io sto invertito dal tempo in cui ho finito di picchiarmi con lui, torno indietro nel tempo e tu quindi stai arrivando nello stesso momento. Quindi come in realtà succede nella scena degli inseguimenti in autostrada. Esatto, esatto, vivendo, lì, esatto. Tu stai vivendo la scena nel tuo tempo mentre io mi sto tornando indietro. Quindi io torno al punto precedente dove eri tu prima. Tu invece stai andando avanti. Cosa è successo? Che per esempio come fanno la famosa scena dell'orologio, che anche lì è scena allucinante. Allucinante, si allucinante. Sincronizzano per far saltare in aria un palazzo per fare una roba e passare... E praticamente si guardano gli orologi quando arrivano... Chi arriva da 0 a 10, chi va da 10 a 0... Secondo me a 5 minuti salta tutto. Scusate, mi ho divagato perché ho rivisto il film. Troppo bello. Sono andato in sbattimento. Cosa succede? Che mentre io torno indietro nel tempo, tu puoi contemporaneamente avanzare. Quello che succede è che io starò vivendo il mio tempo riavvolto. Tu vedi me che mi riavvolgo, ma nel frattempo tu vedi, per esempio, se mi picchio con uno e gli tiro un pugno destro. Vedi il contrario. Quando mi riavvolgo, mentre io torno indietro col destro, tu vedi me che torno indietro col destro, lui tornerà indietro col suo destro, sul suo sinistro, secondo quello che ha fatto. E tu a quel punto potrai vedere che io ho tirato un destro e lui mi stava tirando un sinistro. E a quel punto puoi intervenire facendo quello che vuoi. Perché la scena è materialmente già successa, però ti devi inserire in quello che io ho già fatto. È un disastro, è un disastro. Adesso mi viene in mente anche il fatto che, ovviamente, se io vado, procedo normalmente, tu sei invertito, io vedrò te invertito, ma tu vedrai me invertito. Sì, no, io vedo te che vai avanti nel tempo. Tu vivi l'inversione in linearità, quando sei invertito, cioè tu fai le cose... Ma sei normale, hai semplicemente un boccaglio in bocca e tutto il resto del mondo va all'indietro, al contrario. Quindi tu continui a fare le tue cose, come la scena perfetta che ci ha insegnato Nolan a cercare di vedere in qualche modo, che è la divisione dello specchio tra rosso e blu. Cioè tu assisti a una scena in cui le pallottole tornano indietro, lui sta parlando al contrario, però si stanno parlando, stanno interagendo. Sì. Quello che Kenneth Branagh vedeva dall'altra parte dello specchio, sì, era qualcosa che andava al contrario. Allora, perché lui andava normale. Praticamente cosa succede? Che il tempo va al contrario, ma il tuo tempo personale biologico sta comunque procedendo. Esatto. Giusto? Quindi quando lui si inverte per la prima volta nella scena in autostrada, che per la prima volta decide di fare questa cosa, vede tutto che va al contrario. Esatto, però lui sta andando dritto. Sta andando controcorrente rispetto al tempo, ma il suo tempo procede. Anche la scena della realtà, io non ho capito, ho iniziato a non capirci più un cazzo proprio nella scena dell'interrogatorio. E tutto me lo chiedo. Allora cosa succede? Che lui entra prima di loro, perché c'è una scena, un frame proprio, durerà qualche secondo, sì, quando lui viene trascinato dentro l'interrogatorio, in cui lui vede dall'altra parte del cancello, cioè questo cancello a sbarre che fa filtrare la luce, vede lei che pare camminare dentro, ma al boccaglio. in realtà lui sta vedendo quella che dopo la ragazza colpita dal proiettile e Sator, che sta uscendo in tempo invertito e sta tornando all'autostrada dove andrà a beccare lui. Lui sta dentro, vede tutta la discussione, cioè vive la discussione con l'altro, perché nel frattempo Sator lo stava anticipando, è arrivato prima, si è fatto invertire nel tornello, è uscito dall'altra parte dove c'è lo schermo, dove c'è la luce rossa, e avviene l'interrogatorio. Che poi a me mi manda in sbattimento totale, è fatto benissimo, però si sentono le voci reverse da una parte e dall'altra e poi le voci nella direzione giusta. Esatto. Un casino di audio. E oltretutto sono le voci doppiate, quindi vorremmo riguardarle al contrario proprio per questo. Ma chiediamo a Wired di spiegarci meglio questa dicotomia tra rosso e blu. Ovviamente loro la prendono larga, quindi non vi staranno a spiegare la scena. La compresenza di elementi che viaggiano lineari verso il futuro e in contemporanea di altri che dal futuro tornano indietro nel passato è uno degli elementi più peculiari e spesso sfuggenti della complessa architettura narrativa del film. Eppure Nolan e company disseminano il film di piccole chiavi per comprendere meglio la distinzione tra queste due dimensioni, che pur si compenetrano. Nei casi della mossa tenaglia, in particolare, chi viaggia linearmente dal presente al futuro è caratterizzato da una luce o da elementi di colore rosso. Ah, tutte le volte. Mentre chi è invertito dal futuro al passato è caratterizzato dal colore blu. Attenzione anche ai fori di proiettile. Quando li vedete, anche senza apparente motivo, significa che ci si trova in un contesto di probabile o imminente inversione. Attenzione anche all'accetto rosso attaccato a uno zaino. Individuarlo permette di seguire, in un verso o nell'altro, le azioni di un personaggio specifico. E qui spoileriamo il finale praticamente, perché ce ne freghiamo di chi non l'ha visto. Ripetiamo a Carletto che non ci frega niente che tu non abbia visto il film, ma ti vogliamo chiamare lo stesso. Allora, mi ha svelato l'arcano, poverino, è smart working, non ci può rispondere. Ah, no, sono in smart working, niente chiamate. Vabbè, allora dobbiamo chiamare lui. Lui con la L maiuscola. Lui. Ma se vuoi possiamo anche provare a chiamare Style, vedere cosa ne pensa. Dai, facciamogli una comparsata. Ma mia madre ci sta sentendo. Grande. Ha detto: ora più che mai voglio vedere Tenet. Tutto questo è incredibile. Signora, ma non può tornare indietro nel tempo e non farlo nascere, Lorenzo. No, non è vero, perché in realtà si sta scherzando. Il caro ragazzo, glielo vogliamo bene. Meglio Hank, ma va bene anche Lorenzo. Meglio Hank, molto meglio Hank. Quindi siamo per chiamare lui e solo lui, che non ha timore, anche se non ha visto il film, a rovinare questa bellissima puntata che sta riuscendo alla grande con la sua voce da usignolo. Ci stiamo attingendo a chiamarlo perché ci mancava tanto. Devo un attimo lavorare un attimino qua sulla questione. Intanto è una delle poche puntate di Zona dove stiamo parlando di te. Che cosa orrenda. Ma infatti orrenda. Poi la mandiamo al contrario la replica. Eccolo qua. Ma ciao. Ciao, allora. Cigo, come stai? Bene, voi? È un'emozione, come tutto bene, bene, grazie. Vuoi sentire un po' in sottofondo? Perché tu non la senti. Stavo ma noi... ascoltando, sono già spoilerato praticamente metà film, probabilmente. Più di metà. Però vabbè. No, ma il film che devi vedere si chiama Le onde del destino, non esatto. È te. Esatto, esatto. Ecco. Vabbè, no, Cigo, dai. Ma no, tutto bene, però tu non hai visto il film, giusto? No, purtroppo no. Povero, mi dispiace un sacco. Esatto. Dici cosa pensi del tempo. Avrai fatto delle riflessioni da quando sei nato, insomma, dai. Sì, dai. Che tempo fa di da te? Vabbè, a parte le cose classiche, appunto, che le scoperte degli ultimi anni che dicevate prima, del fatto che il tempo non esiste in realtà degli ultimi anni. Già Einstein diceva la relatività del tempo e tutto, se non sbaglio. Tu secondo me sei uno di quelli che dice: ah, quando ti diverti come vola il tempo, vero? Assolutamente sì. Lo so, tu sei una persona della saggezza popolare. No, invece una cosa... Noi abbiamo pensato anche a una domanda che poi, vabbè, è un po' complicata nella sua complessità, però facciamo finta che passi. Se tu avessi la possibilità di attuare appunto l'inversione, adesso Guglielmo ti spiega cosa vuol dire invertire gli oggetti. Ah, praticamente mettiamo caso che ci siano delle materie che arriva dal futuro perché torna indietro nel tempo, ok. Inventano un macchinario che ti permette di invertire il tuo tempo personale, cioè tu vai a ritroso nel tempo. Ti faccio un esempio così capiamo subito. Cosa farebbe ogni militante che può tornare indietro nel tempo? Andrebbe a uccidere Mussolini, giusto, chiaro, certo. Scontato, ovvio, o lanciare qualche boccia, sparare a qualcuno nel 70, ok. Mettiamo che tu voglia uccidere Mussolini prima che salga al potere. Nella fisica del film tu devi aspettare 80 anni, perché il tuo tempo va al contrario, ma devi aspettare che passi. Non è un viaggio nel tempo, tu stai risalendo il tempo. Capito? Ok. Quindi adesso, dici, se tu avessi questa capacità qua, a parte non puoi rispondere ovviamente a ammazzare Mussolini, ma cosa faresti? Allora, quindi, però, se il tempo deve passare, posso tornare al massimo al momento in cui sono nato. No, perché non per forza, perché tu vai avanti. Esatto. Quando sei invertito, tu vai in una, cioè, vai in una direzione unica. Ok, tu non puoi andare. Appunto, non si può viaggiare nel tempo, ci si può invertire. Se tu ti inverti, entri in un sistema in cui tutto va al contrario, ma tu vai ancora dritto. Quindi tu invecchi. Arriverai da Mussolini che avrai 80 più, quanti anni hai? Sì, no, c'è un centinaio d'anni. Okay, però è una domanda tecnica. Vai, ma in fretta perché il tempo sta scadendo. Oh mio Dio! Torniamo sì, indietro. Sì, per capire. Ma che tempo scade che siamo solo noi qua? Io però devo tornare indietro nel tempo. Sì. Però quando ho 80 anni. Sì. Però a quel punto posso, cioè tornare indietro nel tempo, posso invertirmi. Quando, cioè, al massimo 80 anni. Non mi sono spiegato. Non si è capito la battuta, no. Però anche Tenet non si capisce bene, esatto. Quindi fa niente. Sei in tono col film. Se adesso, sì. Facciamo che mi inverto adesso. Sì. Quindi ho 21 anni, posso invertirmi al massimo di 21 anni. No, allora, la questione è questa. Tu continui a crescere nella tua vita normale. Però cosa succede per te domani? È il 19 di ottobre. Poi il 18, poi il 17, poi il 16. Potresti incontrare te neonato, okay. Ma quando lo incontri e te neonato torni dentro tua madre, tu vai avanti, avrai 21 anni in più. Ok, quindi posso incontrare comunque il me del passato. Sì, è sconsigliato. Potresti subire uno shock e non riprenderti più, dicono. Ok, va bene, bello. Questo, dai, ma perché questo? Allora, se potessi. Perché rimani scioccato? Perché il tu che trovi nel passato non sa cosa è successo. Okay. Perché non è ancora arrivato a quel punto. Capito? Lo shock sarebbe troppo grande. Ok. Non per te, per l'altro. Mi conviene anche in generale beccare gente che non conosco. Sì, sì, esatto. Cambiare quindi, giro, veramente. Sì, amici. Sì, esatto. Cosa faresti? Dove andresti? Okay. Che cosa cambieresti di questo mondo? Sapendo che c'è successo. Probabilmente, cosa cambierei di questo mondo? Ma dai, senza andare al buon Benito, io sì. Detta brutta, regalerei un preservativo per addolcirla un attimo al papà di Salvini. Oh mio Dio, è incredibile. La butta in politica. Per addolcirla un attimo non ho capito, perché siamo tra di noi, però vabbè, apprezziamo lo sforzo della pudicità, anche se non ci appartiene. E quindi, bene, Cigo. Adesso taglierei le palle, però non è bello. No. No, beh. Però vabbè, dai, direi che la scriviamo adesso quando... Noi, fai conto che, allora, Nolan ci ha chiamato ieri dicendo siamo desolato, ma per la questione Covid non potrò passare. Perché altrimenti sarebbe stato qua. Comunque, un saluto a Nolan che ci ascolta sempre. Ciao, sì, certo, ovvio. Poi gli mandiamo il podcast e rimbalzerà tutto sui suoi social. Amichevolmente, però Christophe. Doveva essere qua, solo che sai come vanno sti tempi, ormai tutti paccano. Sì, la scusa del contatto, eccetera. Come piangeva al telefono, era disperato, ci teneva un sacco. E però potremmo anche chiedere appunto a lui una cosa del genere. Però volevo chiederti, tu hai visto altri film del regista? Che so, Memento... La trilogia di Batman. È un regista che mi manca del tutto. Mettiamo giù, per favore. Con più stizza e disdegno delle altre volte. Terribile. Quindi anche Inception, niente. Zero. Shutter Island, nulla. Neanche il Batman di Nolan. Ma perché l'abbiamo chiamato? Madonna, ma io non capisco. Perché lui, lui a volte è sempre lui. Ma poi lavoravi in un cinema, cazzo. Ma infatti. Cioè, ma veramente. Però, allora, il fatto che lavorassi in un cinema. Ti dà dei superpoteri, va bene. Non ne parliamo più adesso. Basta. Allora, adesso invece facciamo scommetto una cosa. Che non è la prima volta che ti danno delle ignoranti sui film e tu rispondi. Non è che se lavoravo al cinema. Ecco, diciamolo. È vero, cioè, io mi piace molto, ma devo recuperarmi troppa roba. Allora, adesso facciamo un esperimento difficile, ma che si può fare. Hai modo di recuperare carta e penna? Ci vuole un foglietto grande, sì. Un foglietto piccolo e una penna. Mica, preparati, perché Gulli la sta preparando da due giorni. Sta cosa che vuole farti fare. Solo per te la vuole far fare. Attento. E foglietto piccolo. Allora, tu adesso scrivi sul foglietto grande, fai una bella freccia che va da sinistra verso destra, come normale senso di scrittura, e scrivi il tempo del mondo. Devo fare una cosa bruttissima che in tempi di Covid non si deve fare, cioè devo starnutire. No, forse no. Okay. Cioè, tutte le volte che diciamo tempo in questa puntata mi salta. Intanto che prepara, sale la musica. Vai. Allora, quindi da sinistra a destra, il tempo del mondo. Esatto. Io ce lo vedrei troppo Cigo in questo film comunque. Adesso fai, prendi il fogliettino, piazzalo sopra questo foglio più grande e scrivi una freccia che va sempre da sinistra verso destra sul fogliettino. Così ho scritto tempo del protagonista. Ok. A quel punto fai un'altra frecciatina sotto che scrivi tempo di Sator. Sempre nel foglio piccolo? Sempre nel foglio piccolo. Quindi tu hai due frecce che vanno in direzioni opposte su questo fogliettino, mentre sei piazzato su un altro foglio più grande che è il tempo del mondo, giusto? Ok. Ok. Allora, praticamente cosa succede in una scena, in una delle scene più eclatanti del film? Succede questa cosa allucinante. C'è un inseguimento in autostrada in cui a un certo punto il protagonista sta scappando insieme al suo prode fedele compagno lontano via dal cattivo. Ma cosa succede? Che il cattivo si presenta su una macchina che va in retromarcia veloce come lui. E ci sono dei dialoghi, c'è un mercanteggiare sulla vita della ragazza, dico, non mi ricordo il nome in questo momento, che però viene presa come ostaggio. Insomma, il sponsor gli dice: o mi dai ciò che mi serve, o io l'ammazzo. Cosa succede? Che a un certo punto poi arriva un'ulteriore macchina, che prima è sversa per terra, ribaltata, ma questa macchina, evidentemente invertita, si ricompone, risale sulla carreggiata e inizia a viaggiare insieme a loro in mezzo a queste macchine. Questo è che voglio farti provare io. Voglio farti provare a capire come funziona quella scena. Cioè, com'è possibile che queste macchine vadano in retromarcia veloci quanto loro che scappano? Tanto sono BMW velocissime nell'autostrada di Tallinn. Funziona così. Beh, se tu adesso provi a muovere. Essendo già successo, si sono invertiti. Uh-huh. Vanno al contrario. Ma vanno al contrario in che senso? Nel senso che. Se tu provi a muovere il foglietto nel senso della freccia del tempo del mondo, capirai subito cosa è successo. Si libera la parte prima. No, cosa succede? Che a te, tu vedi il protagonista che viaggia in avanti nello spazio e nel tempo. Ma chi invece era invertito sta procedendo al contrario. Per cui è normale che vada al contrario, cioè col muso rivolto verso la coda dell'auto del protagonista, ma si muova veloce quanto, perché in realtà nel tempo di chi è invertito sono loro che stanno inseguendo la macchina del protagonista, e la macchina del protagonista sta andando all'indietro nel tempo e quindi all'indietro nello spazio. Wow. Che sbaglione. Invece Cigo, ti dico questa. Catraia, tanto ormai bello. È spoilerato. Tra l'altro riveliamo la data di uscita del DVD, che ho letto da poco su internet. Il 15 dicembre uscirà in DVD subito, e Blu-ray. Non ti preoccupare, ti arriverà come regalo di Natale. Ragionezza! E lo regaliamo anche a Cigo, verrà regalato. Però a livello di regia, Cigo, tu ti devi rendere conto che quest'uomo, nelle scene in cui, cioè, immaginati questa scena. Poi tanto anche lo spoiler vale poco questo film, secondo me, perché poi è da vedere comunque, no? C'è una scena molto bella d'azione in cui c'è una macchina, o anzi un furgone valore, che contiene un oggetto che poi capirai qual è, che deve essere fermata in qualche modo, no? Però devono far capire a chi controlla questo furgone valore che il GPS del furgone valore non si sta fermando in mezzo a un'autostrada perché sta per essere derubato, ma sta andando avanti. E decidono di, ovviamente hanno due spicci quelli della CIA, decidono di comprare dei mega tir che bloccano il furgone, quattro tir che bloccano il furgone ai lati e davanti e dietro, no? In tutto questo però loro sono invertiti. Quindi c'è questa scena assurda di un furgone che va in avanti e tutto il resto che va indietro, no? E tu ti dici, sarà a 1000 green screen, eccetera. E no, ha mandato le macchine in retromarcia, Cigo, a 80-90 all'ora. Ha bloccato una strada per 3 mesi. Quindi praticamente... Massimo, blocchi il cesso di casa tua per 10 minuti, cioè, Cigo, renditi conto. Quando vedrai il film, guardalo con un occhio attento a livello cinematografico, perché è vero che la gente dirà, e queste sono frecciatine verso quelle persone che si chiamano amici, che ogni tanto mi hanno insultato perché ho apprezzato il film, che è costato un sacco di soldi, che con i soldi è facile tutto, però attenzione, nel senso che è impeccabile la regia. Da quel punto di vista lì, tu hai una situazione perfetta in cui gli attori, ovviamente stuntmen, super professionisti, scannavano come i pazzi in retromarcia su una strada assurda. Minchia. Beh, dai, sei contento, vero, che ti chiamiamo a Zona Rossa, Cigo? Assolutamente sì, sapete che io sono sempre contento. Rimani connesso perché adesso c'è anche una parte che vorrei anticipare, fare un consiglio di un libro, però prendiamoci fiato e chiediamoti una canzone. Però deve avere tempo allora. Nel testo o nel titolo? Per favore. Categorico. Va bene, perché io ne avrei chiesta un'altra che non ha tempo nel testo. No. Riferita agli Stuntman, perché è del film Drive, che io ho amato tanto e di cui abbiamo anche parlato. Drive, bello. Drive? Sì. Non ho presente. Sì. Ne vede uno all'anno, ma li vede belli. Oh, allora, io ho visto The Transporter con Jason Statham, ok? Ed è ancora la mia Bibbia. Che cartella. Mamma mia. Madonna. Pam, pam. Aspetta, mi sento malissimo. Niente, stavamo insultando come sempre. Dici sto titolo di una canzone. Se no, con Time nel nome, io chiedo Time is running out. Dei news. Wow. Ci sa, che tanto effettivamente il tempo sta esaurendo, torniamo indietro nel tempo, marchi ingegni che fanno finire il tempo. Sì. Meraviglioso. Sì, meraviglioso. Ottimo. Cigo, grazie mille. Dai, ciao amici. Ciao caro. Ascoltati la canzone, mi raccomando. Bacioni. Ciao ne. Ciao. Insomma, è stata ovviamente una telefonata inutile, ma non avevamo dubbi. Quindi rievochiamo i Muse, che penso sia la prima volta che suonano in questa radio. Adesso vado a prendere il vinile e arrivo subito. Ah, devo continuare a parlare? Beh, allora a questo punto inizieremo a proviamo un adescamento velocissimo. Proviamo a chiamare il nostro faro nella notte dell'ignoranza e gli chiediamo cosa ne pensa del tempo. Solo che devo essere capace di scrivere e parlare contemporaneamente, cosa che mi riusciva all'università quando facevo gli appunti. Riuscivo ad ascoltare, scrivere gli appunti e pensare anche agli affari miei contemporaneamente. È incredibile. Ho trovato il vinile. Un esperimento di dissociazione mentale non da male, non da poco. Vai, manda sto vinile. E i Muse tutti per voi. E ringraziamo i Muse, questo bellissimo vinile che ci è stato regalato da Matthew Bellamy l'ultima volta che è passato qua in Italia per salutare la moglie. Che è domani, perché in realtà siamo tornati dietro nel tempo. Esatto, esatto. Beh, quanto faremo ancora questa battuta? Ma per un bel po', secondo me. Sì. Grazie, sì, no, basta, avete finito. E comunque, io volevo introdurvi a un momento culturale. Vai. Cioè, questo momento culturale bellissimo che volevo fare. Intanto riprendiamo anche l'ansia. Bravo. Della musica di Tenet. Sai che ho fatto 7-8 giorni ad ascoltarmi da solo questa musica? Minchia, poi ti chiedi perché non va bene. Ti giuro. Cosa succede? No, è una figata. Tra l'altro, penso che sia un autore che si chiama, c'è scritto qua, Ludwig Granson. Sì, è non ha chiamato il suo amico il solito che utilizza per fare le colonne sonore, quindi Tenet si distingue nella filmografia di Nolan anche per questo. E vi introduco un libro molto bello di un autore che si chiama Paolo Virno, che è un filosofo. Il libro si intitola Il ricordo del presente. Prima di leggervi il sito dove ho trovato una breve descrizione del libro, provo a dirlo a parole mie. Praticamente lui analizza quello che è il concetto di déjà vu. Tutti noi abbiamo avuto un déjà vu, almeno più di uno nella vita sicuramente. E sappiamo tutti che vuol dire che stanno cambiando qualcosa in Matrix. Esatto, di base è quello. Poi arriva Paolo Virno e ti dice no, non è una cosa che tu hai già vissuto e che la tua mente è esattamente un falso ricordo. Quindi tu hai c'è proprio un bug nel tuo sistema cerebrale che ti fa credere che quella cosa tu l'abbia già vissuta, ma in realtà non è così. E qui ovviamente è un libro sul tempo, perché questa è la prima parte. Lui utilizza il déjà vu come ponte per poi arrivare a dei concetti molto più filosofici di questo. E qui vi rimando a questo sito, che poi metteremo nella nostra chat di Telegram, quella che utilizziamo per comunicare col pubblico. E inizia così: qual è la struttura della temporalità? Oppure, come è fatto il tempo? Se così formulata la domanda guadagna in chiarezza, ma certo non perde in densità. Questa questione antica, buona per il filosofo perditempo di turno che, atteggiandosi gradasso, si balocca con facili conclusioni. Il passato non è più, il futuro non è ancora, il presente fugge via innomabile, irraggiungibile. Il tempo, signori, il tempo non esiste. Applausi compiaciuti di gente che, con poca accorta, ha fatto seguito. Cogliere in ogni sua piaga la storicità della nostra esistenza non è roba cui attende la domenica pomeriggio. E questa è una citazione di Heidegger, perché Heidegger, in Essere e Tempo, analizza tre stati della noia. Il primo stadio è quello del... questa fa ridere. Quando una persona organizza una cena con gli amici, c'è un momento preciso durante la cena che questa persona si annoia. Sente il trascorrere della noia. Il secondo grado di noia, secondo Heidegger, è quando si perde un treno e quindi si aspetta il treno successivo in stazione. E il terzo grado di noia, invece, è quello appunto della domenica pomeriggio. In questo libro, che ricordiamo, Paolo Virno, Il ricordo del presente, già un po' datato ma non invecchiato, Paolo Virno ce ne consegna la fatica di questa descrizione del tempo. Ve lo consiglio, e il momento cultura è finito perché è già abbastanza. Che storia. Beh, io allora che faccio finta di studiare ogni tanto, potrei provare a dire in 5 minuti cos'è la temporalità plurale. Quindi noi siamo abituati, attenzione, nella storia del pensiero filosofico a immaginare il tempo come unico, si affonda alle radici in Aristotele e Platone, che ovviamente parlano dell'Aristotele, parla del tempo in base al movimento, per cui io posso descrivere l'andamento del tempo in base a degli oggetti che si muovono, per cui poi il tempo dell'universo viene scandito dalla rotazione degli astri, che però sono sempre comunque movimenti, e sottintesa c'è il concetto, ma questo più in Platone, che ci sia qualcuno da qualche parte che è il garante del tempo, cioè che fa in modo che il tempo sia uno scorrere di cose continuative. Poi facciamo un balzo in avanti, perché ci sono 18.000 filosofi in un corso che ho seguito, ma sono un cane, non me li ricordo tutti. Lo spirito del tempo è... non è Heidegger? No, lo spirito del tempo... sempre con l'H. Giuda, no? Quel maledetto che Husserl. Poi... Husserl. Ma no, che Husserl, ma va, famosissimo. È una Hegel, bravissimo. Madonna santa. Hegel, che parla dell'evoluzione della storia come un passaggio di uno spirito nei popoli che segnano il tempo con una caratteristica loro propria che va poi ad aggiungersi di tempo in tempo. Per cui se c'era il potere e il dominio nell'epoca antica, rappresentata dai faraoni d'Egitto, da Serse, dall'impero persiano, poi abbiamo l'epoca della libertà personale con i greci, l'epoca del diritto dell'organizzazione statale con i romani, poi abbiamo di nuovo l'epoca delle libertà civili con il Medioevo, i cavalieri, poi abbiamo la cristianità, no, prima, che cosa sto dicendo? Dopo i romani arriva la libertà di Gesù Cristo, per cui il conoscere lo spirito del mondo in base diventa protestante, cosa riguarda. È protestante per arrivare al mondo moderno, che è la razionalità e tutto il resto. Nel frattempo c'è una stampante che parte, ma al contrario. Esatto, invece sì, di stampare sì, i fogli, li sta sbiancando, li sta facendo tornare bianchi. No, ma non ti preoccupare, non è successo niente. Ha fatto una faccia incredibile. L'uomo della stampante. Siamo in diretta, ma non ti preoccupare. L'uomo della stampante. Adesso noi andiamo a cercare di telefonare a una dottoressa, una neodottoressa. Sì, una dottoressa che potrebbe tornare indietro al primo anno. Esatto. Potremmo fare così. No, diciamoglielo, sai che abbiamo detto, la tua laurea è invalida, esatto. Non funziona. Sta tornando indietro nel tempo. Stanno tornando i crediti. L'uomo della stampante è riuscito a stampare ed esulta. Incredibile. Fantastico. Funziona, hai visto? Questo è proprio il... gestione. Sì, l'hai detto. Sì, sì. Perché la stampante non l'hanno costruita a Hong Kong. No, hai ragione, è proprio tua gestione. Sì, sì. Vabbè, detto questo, in realtà il costo i toner non li abbiamo pagati. La temporalità plurale, in realtà, si afferma una serie di filosofi, Spinoza, altra gente, che afferma il come mai in realtà nell'universo ci sono tempi diversi, che ognuno di noi vive il suo tempo diverso, e arriva fino a Marx e dice il tempo è scandito dai rapporti di produzione. Fine, fine, perfetto. Andiamo avanti. Grazie, Marx. No, a breve su questi schermi potremmo anticipare che arriveranno dei bellissimi corsi di filosofia e cose interessanti. Esatto, ci stiamo lavorando e siamo ovviamente in collegamento, seppur segreto, con tutte queste persone che vorranno seguire questi corsi di filosofia. Il numero già sta crescendo, rimanete sintonizzati. www.zam dottoressa! Dottoressa! Una dottoressa in diretta radiofonica! Oddio, sono in diretta radio. Certo. Ciao, amici e amiche di Radio Zeta. Ma secondo te non ti chiamiamo proprio oggi? Ma che cuori che siete, l'ho sempre detto che Radio ZM è la mia radio preferita. Ma è vero, è vero. Zona rossa, senza togliere nulla agli altri programmi che sono tutti fantastici. L'ha sempre detto. È diventata grande, è paracula, no, ma era giusta, è proprio diventata grande. No, dici com'è andata, che ai noi lavoravamo, non siamo riusciti a seguirla. È stata una discussione estenuante tenendo la mascherina. Che è successo? Attenzione. Attenzione. Ci ha messo in attesa. Ha schiacciato con la guanciona. È il telefono suo che sta impazzendo. Esatto, telefonate di ieri, di oggi, di domani. Sarà già ubriaca persa. Sicuro. Cosa è successo? Sei già ubriaca, Silvia? Esatto. Ancora no, ma non so cosa è successo al telefono, ragazzi. È l'emozione. Merito di Tenet. L'emozione. Quindi avevi la mascherina? Molto, molto bene. Conclusa con il 110 lode. Mamma mia. Ma in due parole, almeno il titolo della tesi? Allora, il titolo è Giovani, segregazione urbana e percorsi di violentizzazione, un'esplorazione qualitativa. Mamma mia, incredibile! Le trasformazioni urbane, la lettura dei fenomeni della violenza e della criminalità anche in relazione a queste trasformazioni urbane. Quindi c'erano i questionari che ci hai fatto al parco autogestito qualche tempo fa? Eh? C'erano anche all'interno i questionari che ci hai fatto al parco autogestito? Quelli c'erano, e grazie a voi che è stata scritta questa tesi. Scusate, che mi sta chiamando mia madre. Sono arrivati tutti i miei parenti, ragazzi. Ci vediamo dopo. No, ma dopo 35 minuti di domande da farti. Dai. Una canzone, Silvia, una canzone. Una canzone con il tempo una nel titolo. Una canzone, mettetemi Missy Elliott. Ma no, col tempo mettetemi nel titolo. Ci vuole la parola tempo. Titolo Gossip Folks, penso ti chiami. Ma non ho mai cagato per striscio, va bene così. Anche questa zona rossa, via, dai. Non so se si chiama così, cercatela. Un bacione, compagni. Ciao, brava. Ciao. Grazie, ciao. Abbiamo trovato la canzone. Devo dire che Silvia l'abbiamo stressata abbastanza durante il lockdown. Lei può farle queste cose, Cigo non ti azzardare mai a fare queste cose. Noi siamo stati mandati a stendere cortesemente da Andrea, che ci ha detto no, ragazza, non si può fare. Vabbè, adesso ci pensiamo chi chiamare mentre ascoltiamo la canzone. Io lo so chi ha visto il film. Attenzione. Ah, io non ho a chiamare, ma devo vedere se è in condizioni per essere chiamato. Io ho la persona che è anche in condizioni per essere chiamata. E allora chiamiamo lui e poi chiamiamo l'altra persona. E comunque, ragazzi, ve l'ho mai detto che è un film della Madonna, Tenet. Porca troia, quanto ci sono dentro con la testa, guarda. No, veramente, mi è venuta una scimmia di rivederlo adesso. Allora, facciamo questo piccolo excursus su Missy Elliott. Ci sentiamo fra pochissimo e telefoneremo a Macho. Oh my God! Can't stand it nowhere. When I walk up in the piece, I ain't got any speed. I'm a bad man, my jumper begging y'all people ain't got it like me. I ain't studying these crows. Need to talk what you know. And stop talking about who I'm just mad at ain't chose. I know y'all pull y'all pull. Y'all job just hanging up close. Step to me, get burnt like toast. Y'all suckers, adios amigos. I'm Quindi siamo tornati, intanto confabuliamo su un sacco di progetti che la radio vuole prendere, perché come ben sapete è questo strumento che è stato potenziato durante le prime misure restrittive, ci ha scaldato il cuore, nel senso potrebbe che tornare a potrebbe scaldare tornare. Il cuore. Esatto, sono nati molti programmi, molti compagni e molte compagne, ma anche un sacco di persone da fuori si sono interessate al progetto e ci siamo resi conto che comunque far compagnia alle persone non è una cosa da poco. Io personalmente sono il primo a soffrire di stress traumatico da questo periodo, quindi magari non so se possiamo essere veramente coloro che, come per esempio può fare la Brigata Basaglia, porta diciamo un aiuto nelle case, ma sicuramente Zona Rossa un po' di ironia alla porta. Che porta un sacco di demenza. Esatto, esatto. Intanto il via vai procede. Gente di un certo livello, è arrivata gente di un certo livello. Siamo in diretta radiofonica e vorremmo fare un saluto. Io devo fare un saluto. Vedi tu. Da Gratto Soglio tutto a posto, raga. Olè! Ma a Gratto Soglio tornano indietro nel tempo, Gabriele? Non Gabriele, ancora. Hai visto Tenet? Mannaggia, presente, andiamo avanti. È presente quei posti grossi con gli schermi grandi? Si chiamano cinema. È presente? sono arrivati a Grato. No, si poteva andare al cinema. Esatto, esatto, esatto. Ne abbiamo approfittato. Abbiamo visto un film della Madonna. Allora buttala sul serio. Vabbè, allora fai quello che parla seriamente. Adesso chiamiamo. Sì, ma puoi anche parlare così alle mie spalle. Non ti preoccupare. Tanto l'ha fatto per mesi. L'ha fatto. Non è che adesso si fa problemi. Ma tu non hai la mascherina al contrario per caso? Perché vedo il bianco fuori, non dovresti avere il bianco dentro. Lezioni di mascherina? Eh sì, cretino, c'è la mascherina al contrario. Mamma mia! Diretta radio. Non diciamo chi è, non diciamo chi è. Attenzione. Buonasera. Ciao, sei in diretta su Radio ZM. Quel pusillamine di Lorenzo si è ingoiato il microfono, non parla. Allora. Tutto bene, auguri. Grazie, ma Maccio, due parole su Tenet. Dai, dai, dici la tua. Ma è un ottimo esercizio stilistico e narrativo, però mi pecca un po' sull'eccessivo uso del tempo, al contrario. Ok, in che senso? Che secondo te è un po' forzata la cosa? Un pochino sì, un pochino sì. La trama è troppo... cioè, troppo, diventa troppo intrecciata. Tu sei stato uno dei primi che l'ha visto poi quando è uscito nelle sale. Io sono stato il primo, l'ho visto insieme a Nolan. Prima volta che ci teneva a fartelo vedere comunque. Ma invece ti chiedo, sì, se tu avessi la possibilità di utilizzare l'inversione, cosa faresti nella storia dell'umanità? Ah, porco cazzo. In generale. Sì, in generale, cosa farei? Cioè, diciamo che domani ti svegli e scopri che stai risalendo all'indietro nella corrente del tempo. Dici, ok, da questa situazione io posso trarre un vantaggio enorme, posso farlo trarre a chiunque. Cosa fai? Beh, non so, la pace nel mondo è scontato? Beh, ma è come? Beh, a un certo punto garantirei a tutti un reddito universale minimo di 5.000 euro cada uno. Non 5.5, non 5.2, 5. 5.000. 5.000. Però vai, volevo, vai. Visto che siamo in diretta, volevo creare un po' di suspense e passarvi una persona che ha ben più chiaro di me come il futuro del mondo potrebbe essere più roseo. Siamo qua. Fermi tutti. Ci teniamo. Ci sediamo. Ehi. Buonasera. Mi parlo in diretta da un cannoncino al cioccolato veramente buono. Ditemi pure. Ma se tu... tre domande. Ma se tu potessi tornare indietro del tempo, mangeresti ancora il cannoncino? O ne mangeresti un altro? Magari la crema. Sincero, no, ne mangerei un altro perché non era cioccolato, era Nutella. Ah. Però vabbè. Giulio, ascolta un secondo, ma dall'alto dei tuoi studi letterari, eccetera, qual è l'utilizzo che viene fatto del tempo e dei viaggi nel tempo nella letteratura? Vabbè, davvero. Una volta che ti facevano male a sé. Non puoi parlare, ti si manda a fa' culo, è normale. Ma il congiuntivo prima di farmi queste domande. No, scherzando, ti voglio bene, Giulio. E lo dimostra tanto. Sì, lo dimostra spesso. Vabbè, quindi parlaci del tempo. Che tempo fa a Corsico? Dai, dov'è che intanto sei al piano di sotto? Però dici che tempo faceva a Corsico quando sei partito. C'è un gran bel tempo, è tempo di cinghiali, tra l'altro. Intanto scendono dai monti e si fanno un gaggiano corsico, così. Quei monti che sono lì vicino a Corsico, effettivamente. Le montagne di... non è presente? No. Non sei mai stato? No, nota località sciistica. Le montagne di Corsico, certo. Ma Giulio, non hai visto Tenet, per caso? Sì. Ti ho sentito a scatti malissimo. Non hai visto il film Tenet? Non ti sento. Non hai visto il film Tenet di Christopher Nolan? Ok, ora perfetto. Sì, l'ho visto e... Ah, l'ha visto! Abbastanza schifo. Ma no! Sì, tra l'altro sono cadute le cuffie e mi si è strappata la giacca dall'assurdità di quello che hai detto. Perché, Giulio, perché? Raga. Ma raga, no, ma è una porcheria. Ci poteva essere bellissimo, ha fatto un accrocchio di cose. Ma te la compagnia con Maccio ti ha fatto male proprio, eh? E niente, noi abbiamo dedicato l'intera puntata al film. A quanto pare ci sono, dobbiamo accettare anche che ci siano delle cose che non vengono apprezzate, giusto così. Ma torniamo dietro il tempo e soffochiamo queste persone. Cioè, ma non... ma perché non vivete col respiratore? Raga. Cioè, voglio dire. Cioè, merita un bel dibattito, però, ragazzi, cioè, ma un po' tutto, la sceneggiatura, la... costumi, il discorso, le foto, la luce, la scenografia, le location, hai visto le location? Che posto è, Capri? Che schifo! Fotografia bellissima, un sacco di cose molto belle, però come si sviluppa l'azione e come viene utilizzato la questione del tempo... Okay. Che vorrebbe essere strutturale, ma molto spesso diventa quasi un pretesto per fare cose fighe. Per creare la trama molto complessa. Ci riesce, secondo me, solo in parte. Alla fine, poi anche un po' per l'aspettativa che aveva, mi ha deluso parecchio. Okay. Poi è un film che è stato anche piacevole guardarsi, però sincero. Ma ti va di consigliarci una canzone con la parola tempo dentro? Dai, almeno tu. Una canzone con la parola tempo. Tempo, quello che vuoi. Ma passo, non ce l'ho in canna, quindi passo la parola al nostro giovane dirigente della Giovane Marmotte. Vai. Attenzione. Che ha cercato di sfrangarsela. Ascoltate, comunque, volevo prima di chiudere ribadire che uno dei film, per consigliarlo anche agli ascoltatori, col miglior utilizzo del tempo in assoluto è Hyperscape 2. Attenzione, possiamo chiudere. Hypercube. Hypercube 2, però, il 2. Il 2. Cioè, già che stai guardando un film col sequel, boh, vabbè. Vabbè. Provate a vederlo e l'utilizzo del tempo sarà la cosa che vi sbalordirà. Ma nel senso che nel la film canzone, utilizzano... scusate, dobbiamo tornare a fare del bene alle persone. Sì, va bene, bravo. Meno male ci sei tu che fai il bene. Grazie, grazie Maccio. Sono io, grazie. Soprattutto c'è Giulio. No, no, soprattutto ci sei tu, vai, dici tutto. Cosa cazzo vuole? Non ho capito qual è la canzone. Sì. Dobbiamo dirmi una canzone con tempo nel titolo? Possibilmente. Sì, possibilmente. Dai. Tra i 9.000 titoli che conosci, i 16.000 album che hai. State tranquilli, tutti e due. Lore, vai che compleanno. Spaccati come Vakendu. Comunque, no, lui dice time bomb, ma a me fa cagare, quindi direi il tempo di morire di Lucio Battisti. Ciao, cari. Però qua adesso bisogna un attimo parlare, sessista, non è sessista, Battisti... Forse lo è, però... Mettiamo uno spoiler, dai, mettiamo un disclaimer. Dipende da come la si ascolta. Noi ci dissociamo comunque dai contenuti sessisti, ascoltiamo questa musica perché ha un grande valore artistico e mucca. Aspetta che metto il vinile. Grazie mille, Macio, grazie Giulio. Ciao, cari. Ancora auguri, Lore. Grazie. Auguri, Lorenzo. Ciao. La telefonata peggiore da quando è iniziata la radio, veramente, cioè... Boh, sì, soltanto quando ci hanno paragonato a una trasmissione TV orrenda, forse avevamo toccato questi livelli. Ma va bene così, va bene così. Va bene così, ci piace Zona Rossa, è anche questo, è anche la negazione. Indietro. È tornare indietro sui nostri passi e sulle negazioni, che diventano doppie negazioni, che in italiano sono affermazioni. Perché tu se dici io non ho avuto, hai avuto in realtà. Quindi Lucio Battisti, tutto per voi. Grazie Macio, grazie Giulio. Ci sentiamo fra pochissimo. Motocicletta. 10 HP, tutta cromata, e tu a 16 sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato, e so che guarirei. Non dire no, non dire no, non dire no, no, non dire no, no. Lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato. Perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, stanotte, adesso, sì, mi basta il tempo. Puoi dimenticare domani, ma adesso. non dire no. Lo so che ami un altro, che ci posso fare? Io sono un disperato, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, stanotte, adesso, sì. Potremmo disquisire per un sacco di ore sul testo di questa canzone, ma io amo Battisti fino alla fine, quindi mi spiace, ma è così. È un argomento complesso, complicato. Quanto e come possiamo escludere un artista dalla nostra playlist in base ai contenuti delle sue canzoni? Tanto torniamo nell'ansia. Quanto è bello, questo è bellissimo. Mamma mia. Tu sai 30 secondi ad ascoltarla. All'inizio c'è l'opera. I musicisti che stanno provando. E arriva l'ansia. Dato è un attacco terroristico all'opera. Madonna. Ma mi sono domandato se addirittura non fosse tipo una specie di collegamento reale con la realtà. Cioè proprio che volesse condursi alla, all'attacco dei terroristi ceceni. Non era l'opera di Kiev, era in Russia. Però non sei l'unico che ha fatto questo collegamento, eh. Perché dovrebbe avere un fatto così specifico? Perché è proprio quella roba lì, cioè l'attacco all'opera. Perché aveva bisogno di stare dentro il quadrato magico. Probabilmente sì. Adesso è precedentissimo tra poco. Loro che corrono dentro l'opera. Io da qua mi sono incollato, non mi sono più scollato con lo schermo, giuro. Ma tra l'altro al cinema lo trasmettono senza pause. Sì. Io l'ho visto in IMAX. Cioè? Cioè? Lo schermo è un po' più largo ai bordi. È come lui filma, lui è uno dei pochi a utilizzare telecamere nativamente in IMAX. L'ansia sale, uno si aspetta che da un momento all'altro muoiano tutti. Esatto. Una bomba sganciata sull'opera, tutti morti. E tra l'altro ci sono molti suoni che sembrano fatti al contrario. Questi suoni risucchiati. Ciao. Voglio vedere quando arriva lì, c'è lo spettro d'onda più largo, cosa succede? Casino. Manca poco. Parto e arrivo. Ah, perché metteva i bassoni. Mi sa che in questa scena è tipo sparatorie, lui che va in giro, toglie le bombe da tutti i sedili, scopre che viene salvato, gli viene salvata la vita da un proiettile che gli stava arrivando in faccia. Torniamo, ad abbassare i volumi e andiamo a chiamare un gruppo di amici, di amiche che sono tornati indietro nel tempo. Che sono tornati indietro nel tempo. Esattamente. Sì, ma gioco del destino beffardo proprio oggi. Proprio quando si. Buongiorno, pronto, Davide. Pronto. Buongiorno. Ciao, siete in diretta sulla DZM. Ciao. Wow, sospettavo. Non so perché ho avuto questa sensazione. È giusta, giusta, confermata. Dai, fai avvicinare i tuoi coinquilini. Tanto voi potete non rispettare le distanze di sicurezza. Purtroppo per noi. No, in realtà abbiamo istituito un rigido protocollo interno alla casa. Ah sì? Ah sì? Eh sì sì sì, qua ci sono novità perché dovete capire che siamo comunque degli sperimentatori. Bravi. E sul lì. Sì, no, dato che appunto il lockdown insomma ormai sulla bocca di tutti, noi abbiamo così voluto anticipare un po' i tempi e siamo sperimentatori, quindi stiamo testando delle norme, poi ATS ci utilizzerà un po' come campione di sperimentazione. Beh, che storia, ma quindi adesso praticamente state insieme. Com'è la logistica? Cioè, tu e Sushi vi frequentate, Martina e Chiara si odiano ed Elena, guarda, so, tutto cammina sulle mani e basta. Sì, però ti dimentichi un inquilino importantissimo. Ma chi? Ma chi è capo? Il capo non si scambia. Lui ha il passepartout, può andare ovunque. Grande. In questo momento. Fantastico. Certo. Ma tu da dove ci pare? Da un cuscino? Non so, sì, sì. Bravo. Vedi, ci hai azzeccato, quello, incredibile. Sì, sono praticamente accucciato, cioè tipo la cuccia di macchina l'abbiamo ricreata, dato che ormai è il più importante membro della casa. Esatto. Ho capito. Il Lord. Beh, vedo che comunque a lucidità stiamo a posto, quindi easy, quando hai iniziato ad appendere gli intestini di qualcuno al soffitto non ci preoccupiamo, cioè, insomma. Siamo in formissima. Esatto. Dado, ma in tutto questo tempo tu hai mai visto Tenet? In realtà no, mi manca questa perla. Mannaggia. Cazzo, eppure stavamo ironizzando con amara ironia e aspra ironia sul fatto che per voi effettivamente voi siete tornati indietro nel tempo, perché siete tornati a una condizione precedente in cui, ahimè, non si poteva uscire di casa. Ti metti la voce così almeno. Bravo, prendo gli insulti da tutti e tutte. Dicevamo che noi siamo tornati indietro nel tempo. Sì. Un po' sì, si tornate delle vecchie abitudini. Ciao coinquilini. Ciao, auguri. Grazie, ciao. Grazie, è vero. Ah, è vero, auguri, Lore. Grazie, grazie mille. Tanti auguri a te. Ma quindi, veniamo a noi. Allora, abbiamo parlato tutta la puntata di questo film incredibile dove si torna indietro nel tempo. Ma se, entrando nel vostro fantastico ripostiglio, che è stato svuotato tra l'altro durante il lockdown, con la somma gioia di Martina che ci ha trovato dentro tipo tre stanze, non un ripostiglio. Se voi entrate nel vostro ripostiglio, uscite dal ripostiglio e vi accorgete che il tempo sta andando al contrario. Cioè voi vi trovate con il vostro tempo soggettivo che procede, cioè voi invecchiate, vi svegliate la mattina e siete di un giorno più vecchi. Ma tutto il resto va indietro. Quindi per il mondo diventa il 19 di ottobre, poi il 18 di ottobre, poi il 17 di ottobre. Cosa fareste? Cosa cambiereste nella realtà degli eventi? Wow, questo è il gioco preferito di Martina. Vai, invertire il tempo? non è più infettare il mondo con armi batteriologiche. No, così, fare gli esperimenti temporali. Vai, io arriverei puntuale. Minchia. Madonna, che risposta. Tanto arrivando da davanti. Cioè lei. Capito. Ti vede Martina che Martina arriva retrocedendo e arriva in orario di appuntamenti. Cazzo, bello. Beh, dici poco. Minchia, per te? Beh, per no, no, no, no, è tantissimo. Ma scusami, in questa io ho una domanda. In questa dimensione temporale alternativa, cioè la memoria delle persone va... cioè le persone non hanno memoria? No, sono come le hai lasciate, solo che loro stanno andando all'indietro nel tempo, per cui anche quando ti parlano, cioè a parte il fatto che non ti parli, penso che ti parlano, questo sarebbe da capire. Beh, cioè, quando nel film si parlano strani comunque. Sì, praticamente tu li senti parlare, ma va al contrario rovescia rispetto a te. Ovvio che se succede una cosa oggi, ieri non puoi saperla. Esatto. Ok, esatto. Quindi facciamo questo esempio per farti capire. Tu entri nello sgabuzzino stasera, torni indietro nel tempo... Vedi me che esco da casa tua, anzi ti lascio, mi riprendo le borse della spesa, sì. Capito? Sì, sì, sì, no, cioè okay. Gli avvenimenti vanno al contrario, chiaro. Mi chiedevo rispetto alla memoria della serie, se io potessi finalmente esaudire il mio sogno, cioè metterti un dito nel naso così, da un momento, senza preavviso, tu il giorno prima, cioè il tuo giorno prima, non lo potresti ma il mio sapere. Giorno dopo. No, non lo potrei cioè io me ne accorgerei nel mio tempo soggettivo e me ne accorgerei dopo che è successo. Chiaro. Per cui non, cioè, per quello vorrei sapere in un momento successivo che per te però si allontana il tempo all'indietro. È il tuo tempo soggettivo. Ah, ok, ok. Tutto quindi, vabbè, che trip, cioè, eh. Ci sono delle conseguenze comunque per le mie azioni. Eh sì, è chiaro, chiaro, chiaro. Eh no, però se il mondo va all'indietro, cioè vuol dire ammazzo la gente e da quel momento in avanti quella gente sarà morta. Non, esatto. Questa non è retrattiva, però da quel momento in avanti la gente sarà morta nel loro fluire temporale. Nel loro futuro, che però non è il mio. Sulla linea temporale ancora dovremmo capire, chiamare il regista del film e interrogarci, perché effettivamente, non voglio fare troppi spoiler, però il dilemma del io modifico il passato e quindi modifico anche il mio presente, non abbiamo una risposta. Tu cosa ne pensi? Io? Sì. Ah, beh, se vuoi possiamo parlare col Davide che è dietro di te, che sta tornando indietro nel tempo e ti vuole uccidere perché mi ha messo un dito nel naso e quindi vuole suicidarsi, però aspettiamo. Ok, no, la roba è che non avendo visto il film, cioè, ti posso dire cosa ne penso così. Sì, no, certo. Questa descrizione. Io penso che non ci sarebbero conseguenze nel mio futuro, perché il mio futuro è il tuo passato, e quindi potrei sfoltire la lista dei miei omicidi intenzionali che ho nel cassetto da ormai. Ah, minchia, quel libro grosso che ho visto l'altro giorno. Bravo. Ma sai che è bravo. Illuminante Davide, perché secondo me Davide ci ha svelato la natura dell'antagonista del film. Non diciamoglielo perché secondo me gli stiamo facendo ti sta venendo un po' di gola di vedere il film. Ma sicuro, ma infatti è ovvio, cioè, oh, guarda, vi dico solo siamo pagati che dalla Warner Bros per portare della gente al cinema. Grazie. No, in realtà ti filmando anche lo streaming, fallendo, quindi esatto, il Ducale forse non arriva a fine anno. No, io ho tra l'altro dai 10 ai 14 giorni in base al medico di base che si consulta di tempo per guardare questo film, quindi lo farò sicuramente. Molto bene, molto bene. Sì, sì, sì. E quindi c'è, cioè, la questione è questa, già questo cattivone vuole uccidere tutti e tu ci hai svelato, cioè subito proprio naturalmente, dici, beh, ma se il tempo va all'indietro mentre per gli altri va in avanti, io posso tornare indisturbato nel passato e ammazzare quelli che voglio. E loro non lo sanno, perché loro sono praticamente sono inchiodati alla loro realtà, per cui loro non potranno fare altro che quello che hanno già fatto. Chiaro. Beh, ma forse perché il regista un giorno nel suo futuro, ma il mio passato, mi ha incontrato e ha così si è illuminato durante una nostra chiacchiera. Madonna, che trip. Capito? Invece ne vorrei fare un'altra. Quando lo guarderai rifaremo un pezzo di puntata che incolleremo nel podcast di quella di oggi, ma che poi andrà domani, e quindi sarà un purpurrio di passato, presente e futuro che si mescolano. Che comunque è già successo prima, è quello che è successo prima col mio telefono, che a un certo punto ci sentivamo noi dal passato parlare. Io mi fido di te, Dado, mi fido un sacco. Secondo me lo vedrai e troverai, esatto, troverai un sacco di cose che vanno bene, cose che non vanno bene, ma con uno spirito critico che ti contraddistingue. Guarda, vorrei solo che in questo momento comparissero Rick e Morty davanti a me, oppure Doc e Marty. Doc e Marty? Ti tira solo due schiaffi, possibilmente. E così, esatto. Gulli, chi sono Doc e Marty? Doc e Marty non sono mica io, mi sono aumentato di brutto i bassi sul microfono, sento appena mazza. Doc e Marty sono mica i due personaggi, l'anziano dottore fisico pazzo e il giovane nipote scapestrato che vanno in giro per molti universi in una nota. No, serie. Doc e Marty sono Ritorno al Futuro. Ah, Doc e Marty, scusami, allora Rick e Morty. Esatto. Sì, Rick e Morty, il cartone. Fega, confuso. E gli altri di Ritorno al Futuro. Comunque, Davide, lo so che tu lo sai, ma questa cosa qui, questa che hai appena detto riguardo alle se è possibile cambiare il passato o il futuro, ha una, come si dice, una descrizione molto scientifica, che è il paradigma del nonno, il paradosso del nonno. Ah, aspetta, c'era su un capitolo dell'articolo di Wired. Ma ne parlano anche, cioè lui, proprio il Robert Pattinson, nomina questo paradosso del nonno, cioè, se io invento il viaggio nel tempo, potrei tornare indietro e ammazzare mio nonno. A quel punto le cose sono due, o io scompaio, perché non ho annullato la possibilità che io nasca, perché ho ammazzato mio nonno, oppure io rimango in vita. Questo però vuol dire che ho creato, cioè che non so come dire, che la, qual è l'altra parte del paradosso, non me lo ricordo più. Vabbè. Citiamo Wired, ecco, praticamente. Allora, hai un tu mi hai svelato un dosso, manca il para. Cioè. Vai, adesso arriva il para. Che la para. Il piano di Sator è quindi delle persone del futuro, implica una distruzione totale. Qui si incappa però nel cosiddetto paradosso del nonno. Si tratta di un assunto di assurdità utilizzato per dimostrare l'impossibilità dei viaggi nel tempo, in quanto se un nipote viaggia nel tempo e uccide il proprio nonno, prima che questo incontri sua nonna e dia vita a una progenie, diviene impossibile l'esistenza del nipote stesso, che non potrebbe così viaggiare nel passato. Questo è il dosso. Lo stesso vale per il progetto che si vede in Tenet. Se la gente del futuro organizza la distruzione del passato, e quindi dei propri ascendenti, come fa a essere sicura di garantire la propria esistenza? Il paradosso è risolto qui con la disperazione. La generazione future sono totalmente disperate, che non hanno altra scelta se non tornare indietro. Minchia, yeah. Che storia. Beh, comunque alla fine in realtà, se loro distruggono il passato, poi nel futuro si mettono dentro un tornello, tornano indietro nel tempo. Sì. Ricostruiscono il tempo. E quella, in teoria è quella l'idea, sì. Che e figata. Tutto questo è per... Non diciamolo, perché Dado vuole vedere il film. È vero, è vero, è vero. Assolutamente, devo guardarlo. Dado, grazie. Grazie a tutti i conquilini. C'è un'altra domanda, però. Esatto, a tutte le conquiline e conquiline della comune del Viale di Missaglia, siamo con voi. Verrete tempestate di telefonate spessissimo. Ma anche di notte, a retta del mattino, tipo, oh, butta la pasta, Davide, una roba così. Faremo una specie di Friends in radio. Esatto, ma senza Friends, comunque... solo con la comune di Missaglia. Comunque, Gulli, poi ti devo insomma ringraziare doppiamente, perché dato che vi abbiamo chiesto la spesa, no, subito SOS Brigate di Solidarietà Popolare, ma Gulli, giustamente, sapendo che sono un ingordo, io mangio anche alle 4 di notte, non solo a mezzogiorno, ha fatto il doppio della spesa che gli abbiamo chiesto. Sì, sì, sì, esatto. Io nel dubbio ho preso il doppio. Ho detto, boh, vabbè, mi hanno detto 4 broccoli, ne hai preso 2, però 9. Così magari... Bravo, perché ti sei ricordato che, insomma... dei tuoi problemi di gestione notturna. Continui, ti fanno tutti gli orari. Esatto, esatto, esatto. Ma veramente, vabbè, questa è, lo nascondo, la mia grande capacità di fare la spesa, però davanti a un'indicazione di 4 broccoli, vengono fuori 2 kg di broccoli, dicevo, vabbè, vorranno farsi... No, ma i broccoli vanno sempre, sono pure di stagione. Sì, quanto è vero, quanto è vero. Ah, e quindi Lorenzo, volevi fare una domanda? Sì, Dado, devi trovare una canzone che abbia la parola tempo dentro da consigliarci da mettere in radio. Ah, minchia. Dai, che tu la sai. Diaz. Sai che a me stanno venendo in mente una scarica? Anche a me tantissimo. Tantissimo. A noi piace la radio, quella che viene parlata, per cui mentre tu ci pensi... Esatto, no. Vai, dici, esatto, dici. Se racconto una barzelletta, io intanto ci una penso, barzelletta. La sai quella del regista che gli è caduto il caffè sui pantaloni e ha detto, cazzo, potessi tornare indietro nel tempo? Fermi, ragazzi, ho un film. E 3 anni dopo... Con questa musica... Potremmo rialzare il volume semplicemente e ascoltarci un pezzo di colonna sonora che fa bruttissimo. Ecco questa roba qua. Ma sembra il titolo, merda. Time anche, non per forza in italiano. Esatto. Ok, in qualsiasi lingua. Allora, Jovanotti, tieni il tempo. Push up the tempo, non mi ricordo chi l'ha fatta. Poi Time is running out in the Muse, l'abbiamo ascoltata. Time the Pink Floyd. Oh, attenzione, andiamo a cercarla tra i vinili. Vabbè, ma allora, se voi poteste scegliere in che maniera venire disturbati, noi si ipotizzava prima una roba tipo, non lo so, in cucina con Davide e Martina, una roba per cui una diretta radiofonica in cui ci raccontate cose con come cucinate i cavolfiori. Sarebbe bellissimo. Ah, ma noi qualsiasi modo in cui vogliate chiamarci, fatelo, chiamateci. L'ha detto. Va bene, ma no, si deve bene. Chiamare abbiamo, sempre abbiamo te? Fatto la pasta brisè poco fa. Oh, là. E faremo una torta salata, broccoli e patate. Ma raga, non vi ho preso il lievito di birra però, mannaggia. E quello è no, un articolo vabbè, che poi diventerà... Per la pasta brisè non serve. Hai capito, però magari farete il pane in casa, farete un sacco di cose. Va, vediamo. Dado, è pronta la canzone. Adesso il gioco è imparare a andare a sentire la radio. Paura. No, nel senso che devi andare ad ascoltarla. Cioè, io devo andare a cercare. Così no. Ti senti la canzone che ti abbiamo mandato, perché al telefono non possiamo fartela sentire. Esatto. Ah, spengo quindi. Cioè, ascoltaci in poche parole, dai, almeno certo, tu. Certo, almeno in chiusura, ascoltaci. Bravi, ma come eravate collegati, ma... Mannale. Tieni conto che la radio è già un po' Tenet, perché andiamo in onda 10 secondi dopo, quindi... La connessione salta, perfetto, dai, allora ci ascoltiamo la song, bella raga. Grazie Dado, ciao comune. Ciao. Che pezzone. Oh, vai, mandiamola poi con i saluti finali, ci diciamo una serie di cose assurde. Pezzone. Che pezzone. Pezzoni veri. E lo lasciamo sotto. Tenete conto che dopo la fine della puntata ci sarà tutta la colonna sonora di Tenet che verrà mandata in onda. Avevate chiesto precari? No, così. Rifacciamo. Scusi, avete ordinato un bilico di ansia? È arrivato. È qui per lei. È tutto vostro. Comunque, abbiamo momento parlato... cultura. Momento esatto, cultura. Abbiamo parlato un sacco di tempo. È stato nominato Asimov con il suo racconto breve consegnato da Davide. La domanda, titolo La domanda di Isaac Asimov. C'è un altro libro dove Asimov si interroga a proposito dei viaggi nel tempo. Si chiama La fine dell'eternità. Si ipotizza un futuro in cui, dopo il 24esimo millennio, per l'umanità è possibile viaggiare nel tempo attraverso dei pozzi e del personale specializzato che ha il compito di viaggiare in avanti e indietro nel tempo per evitare guai, disastri, catastrofi, eccetera, eccetera, eccetera. Ed ovviamente un gruppo segreto. Cosa succede però? Che si scopre che c'è un limite oltre cui non si può andare. Non si capisce come mai, dopo il 110esimo secolo, la Terra è una landa desolata ma verde, senza più nessun essere umano, e non si capisce perché è ipersecretato, come mai in quei secoli sia così, e non si può andare. Non si può andare lì. Andatevi a leggere il libro, no. E in poche parole si scopre perché è sbagliato viaggiare nel tempo. Cioè, controllare troppo il destino degli esseri umani fa sì che non ci sia evoluzione. E questa cosa nel futuro profondo la scoprono, la sanno, e quindi decidono di porre un blocco. Vi ho svelato un po' il libro, ma è una bomba. Insomma, penso che sia la puntata più di cultura. D'altronde, con un film del genere non potevamo esserne da meno. Bellissima questa foto, grazie Fergi. E intanto l'uomo della stampante ha capito come si stampa. Il toner finirà in 24 ore. Esatto. Ringraziamo tutte le persone che abbiamo chiamato, che abbiamo disturbato. Ringraziamo Nolan. Ci dispiace che non è potuto venire qui, sarà per la prossima. Chris, non ti preoccupare. Ringraziamo soprattutto ringraziamo la mamma di Lorenzo che l'ha fatto 30 anni esatto. fa. Esatto. Andiamo a festeggiare, andiamo a berci qualcosina. Mi raccomando, con le distanze. Zona Rossa va avanti, la radio va avanti. www.zam-milano.it Archive, Facebook, Radio ZM, non vi molla. Assolutamente mai. È stato bello. È stato bellissimo. E mo assorbite l'ansia. Facciamo finire Time. Ci saranno 10 secondi di silenzio e poi finisce tutto. Softly spoke.